non ti scusare mai con me. Non ti scusare mai con me. Ogni attimo di tuo è per me gioia, ogni tua parola una sorgente per la mia gola, ogni tuo silenzio una sinfonia che mi riallaccia alle radici, in te vedo solo poesia. Quello che distrattamente ti dissi chiaramente, no, non dirmi tutto, lasciami indovinare, lasciami scoprire il mistero della tua bellezza, quella che ti manda bigliettini pieni di te, di tenerezza. Perché tu sola sai decifrare i miei tempi, i miei silenzi oscuri, tutti i miei tormenti, i calamari dei miei sogni, i miei assurdi impegni, la mia voglia di respirare, di valicare pianure e monti. No, non ti scusare, che sono io a perdere i pezzi. Tu facci casa sulla mia testa, metti la tua bocca dentro ai miei occhi, io sono la tua spada, tu sei il mio fodero, sguainami il cuore, che sto sanguinando amore, non farmi più vincere che ho capito che sei più forte, ed io sono e sarò sempre dalla tua parte, non farmi più vincere. Sono e sarò sempre dalla tua parte. No, non ti scusare. Essere cieca del tuo stesso cuore, non ti scusare. Tu regali il meglio del meglio e non sai quanto io ti voglio. Io sono la tua spada, tu sei il mio fodero, sguainami il cuore che sto sanguinando amore, amore. Non farmi più vincere che ho capito che sei più forte. Sono e sarò sempre dalla tua parte. Non farmi più vincere. Sono e sarò sempre dalla tua parte.